giallo e nero. Tra i misteri della cronaca con Daniele Biacchissi. La mafia che non spara. Cosa nostra oggi. Giuseppe Impastato, direttore di Radio Auto dei Cinesi, autore del programma Mafiopoli, ucciso dai killer di Cosa Nostra il 9 maggio 1978. Oh yeah, you speak English? Sì. Ma guarda, ti dice yeah! Chi è questo ingrato? Il cuore. Naturalmente il cuore di Mafiopoli. Passato, non ci pensare più. Sarebbe molto opportuno non pensarci più. Comunque, c'è chi ci pensa. Ah, voglio, su capita, stanno in coppa. In coppa a che cosa? In coppa di cavallo. In coppa di cavallo. Il cavallo non è più di moda a Mafiopoli, almeno in questo periodo. Un periodo appunto caratterizzato dal clima della campagna elettorale. Il cavallo non è di moda in quanto non è in lizza il cavaliere. Ma come? Un vecchio cavallo si è stoppato? No, diciamo che si è ritirato il miglior cavaliere. Giuseppe Fava, giornalista ed intellettuale siciliano, uomo di teatro. Ucciso dalla mafia nella sua Catania il 5 gennaio 1984. Il motivo di loro non sono quelli che ammazzano, non quelli sono gli esecutori, anche al massimo livello i mafiosi sono in ben altri luoghi e in ben altre assemblee. I mafiosi stanno in Parlamento, i mafiosi a volte sono ministri, i mafiosi sono banchieri, i mafiosi sono quelli che in questo momento sono i vertici della nazione. Giovanni Falcone, magistrato, ucciso a Capaci il 23 maggio 1992. Il pianto è di essere stati ad un passo da una svolta epocale e di non essere riusciti a farlo. Questo per tutta una serie di fatti, di errori, di volontà altrui. Però a un certo punto quello che doveva essere il primo passo di una forte avanzata contro la mafia, poi si è disperso in tanti rivoli, in tante pastoie, in tanti contrasti. Don Puglisi, parroco del quartiere Brancaccio di Palermo, ucciso dalla mafia il 17 settembre 1993. L'apertura di questo centro per noi è anche segno di una esplicita fiducia nella solidarietà degli uomini che esprime, potremmo dire, la provvidenza di Dio. Per loro e molti altri uccisi dai killer della mafia, la lotta contro la criminalità rappresenta il senso di una vita. Per quei siciliani che ancora oggi non vogliono dimenticare, la lotta alla mafia passa per alcuni punti certi: la difesa della legalità, la sottrazione dei beni ai boss e la caccia ai latitanti. Non è facile cambiare il proprio volto nel corso di 42 anni. Restare a lungo latitanti in zone così circoscritte della Sicilia non è cosa che tutti possono fare. Bisogna avere delle protezioni forti, radicate, fin dentro alle istituzioni, ai corpi dello Stato. Perché un uomo può cambiare le proprie sembianze, ma non per tutta la vita. Prima o poi un errore inganna e ti spedisce dritto nel mondo del 41 bis, il carcere duro per i mafiosi. Nel mondo è potuto accadere solo a Bernardo Provenzano. Nato il 31 gennaio 1933 a Corleone, corporatura robusta, occhi castano chiaro, capelli castano scuri. Binno, questo è il suo soprannome, resta l'ultimo dei capi della mafia moderna siciliana. 1963, Corleone è dominata da due clan criminali. i picciotti di Luciano Ligio e quelli che stanno con Michele Navarra. E in mezzo c'è soltanto una lunga striscia di omicidi, casi di lupara bianca, ferimenti. L'alba del 9 maggio di quell'anno, quattro killer, Giuseppe Ruffino, Calogero Bagarella, Giovanni e Bernardo Provenzano, agiscono su ordine di Luciano Ligio. Devono uccidere Francesco Paolo Streva, esponente del clan Navarra. Streva riesce però a rispondere al fuoco dei sicari e sfugge all'agguato. I mafiosi Biagio Pomiglia e Antonio Piraino vengono colpiti a morte. Streva sarà poi ucciso il 10 settembre. I carabinieri si fanno un'idea precisa di quell'omicidio. Il 9 maggio 1963 gli inquirenti convocano Bernardo Provenzano nella caserma di Corleone. Accertamenti, nulla di più, diranno. I militari non hanno prove per incastrare Binno, così lo rilasciano. È l'ultima volta che vedono da vicino il boss dei boss. Il 18 settembre 1963 inizia la lunga corsa da latitante di Bernardo Provenzano. Di lui restano soltanto foto segnaletiche ed elaborazioni del suo volto tramite computer. La prima risale il 17 settembre 1958, quando viene fotografato nella caserma di Corleone, dopo aver rubato 7 quintali di formaggio insieme con altri complici. È l'immagine di un uomo che sembra essere appena uscito dal barbiere, capelli lucidi di brillantino, il volto segnato dal taglio profondo degli occhi. La seconda fotografia invece è più tecnologica, è l'elaborazione attraverso il computer dei suoi tratti somatici. Verosimile, non vera. Scomparso, volatilizzato. A giudicare dagli indizi proprio no, tutti sanno dov'è, ma lui riesce sempre a sfuggire alla cattura. Un esempio, 1981. Le intercettazioni telefoniche della polizia di Agrigento sull'utenza del mafioso Carmelo Colletti fanno emergere il ruolo di un ragioniere. Si parla dei suoi conti, delle sue fatture, quelle che i boss siciliani vanno a ritirare in una ditta del materiale ferroso, la ICRE di Bagheria. Nessuno all'epoca pensa però di controllare chi sta dietro a quegli uffici, al chilometro 248-248 della strada statale 113-113. Il ragioniere Provenzano. Le intercettazioni restano chiuse nell'archivio di Palazzo di Giustizia di Agrigento, allegate agli atti del maxi processo. Le bobine risultano misteriosamente scomparse. La zona franca che protegge Provenzano viene violata nel 1995 a Bagheria. I carabinieri del ROS si trasformano in operai, ragazzi che tornano dal mare, semplici imbianchini. Osservano cioè le mosse di alcuni signori vicini a Binu. Sono Giacinto Di Salvo, Vincenzo Gianmarco, Giacinto Sciana. Le loro ville erano sorte del grande parco vincolato della villa settecentesca dei Valguarnera. Lì, dicevano i pentiti Giovanni Brusca e Angelo Sino, si era nascosto Bernardo Provenzano. Una sorta di processione di medici, di infermieri. Gli curava la prostata e le riunioni scandivano gli ordini per la spartizione degli affari. Provenzano però si era già allontanato, come già nel 1981, prima che scattasse il blitz. E ancora in Francia, anni dopo. Gennaio 2001. Durante il blitz che porta all'arresto del boss Benedetto Spera, la squadra mobile di Palermo scopre le lettere che i figli, la compagna, il fratello, Salvatore, inviano a Bernardo Provenzano. Alcuni riferimenti risultano cifrati. Scrive Angelo Provenzano al padre. Per una visita medica avevo intenzione di contattare, con il tuo permesso, 10122341515112. 1481964741521. Acquisto terreni. Sono stato un po' disubbidiente su questo argomento, in quanto sotto le feste mi sono visto con la persona interessata e siamo rimasti che dopo le feste ci dovevamo vedere per discutere. Tu ti ricordi di quel terreno di cui ti ho parlato, che tu mi hai sconsigliato in quanto terreno brutto? Io non ho abbandonato di seguire l'evoluzione dell'affare. E mi fanno sapere che il proprietario è disposto a vendere per 400 milioni i 38 ettari di cui è composto.

allargato le ricerche in campo internazionale per arresto ai fini istituzionali, ma i segnali sono contrastanti. Forse, dicono, si aggira davvero intorno alle campagne di Trapani. Altri mafiosi risultano ancora oggi latitanti. Sandolo Piccolo, nato a Palermo il 16 febbraio 1975. Lo Stato gli dà la caccia dal 1998 con le accuse di omicidio, associazione mafiosa, estorsione. E ancora Giuseppe Falsone, nato il 28 agosto 1970 a Campobello di Licata. Associazione mafiosa, omicidio, traffico internazionale, sostanze stupefacenti. E infine Maurizio Di Gatti, nato il 7 ottobre 1966 a Racco al Muto. È ricercato dal 1999 per omicidio e associazione mafiosa e truffa. Siamo stati abituati per lunghi anni ad assistere impotenti e quasi facendovi l'abitudine ad imprese scellerate e alla crescita smisurata di organizzazioni criminali che sono divenute un vero e proprio contropotere all'interno dello Stato, condizionando intollerabilmente lo stesso sviluppo democratico del Paese. Era inevitabile che queste strutture prima o poi si sarebbero incrinate e che qualcuno avrebbe cominciato a parlare. Ed era prevedibile del pari che le strutture giudiziarie e di polizia sarebbero state messe a dura prova. Giovanni Falcone aveva capito che la lotta alla mafia ha tempi lunghi, perché loro, i boss, avrebbero continuato le imprese criminali anche nella latitanza. E lo Stato avrebbe fatto molto per fermare la loro corsa, ma mai abbastanza per sconfiggerli del tutto. Giovanni Falcone aveva compreso che il punto centrale della lotta alla mafia passava per la caccia ai latitanti. Bisognava snidarli in ogni angolo del mondo, togliere l'acqua in cui nuotavano. Per questo motivo i boss come Bernardo Provenzano, Totorina, Giovanni Brusca lo hanno ucciso, attendendolo a Capaci il 23 maggio del 1982. Quelle che sentirete sono le comunicazioni originali tra agenti e centrale operativa il giorno di quella strage. Traffico bloccato in entrambe le direzioni, il fatto che è verificato allo vicolo di Capaci, cioè alle ferie, un po' prima dello vicolo di Capaci, c'è tutto il terreno sventrato. Il terreno sventrato, vi do la notizia appena possibile, perché il ferito lo stanno portando via in questo momento, cambio. I feriti sul posto! Tutti, perché a seguito di attentato avvenuto in Palermo, attentato di una metardi in Palermo, controllare tutti quelli che escono dall'autostrada. Ricevuto. I mafiosi nuotano in quell'acqua composta da connivenze radicate nel territorio, come ricordava Paolo Borsellino, poco prima di morire, il 19 luglio 1992, nella sua Palermo. Uno dei maggiori punti di forza dell'organizzazione mafiosa è il consenso. È il consenso che circonda queste organizzazioni e che contraddistingue queste organizzazioni da qualsiasi altra organizzazione di criminalità organizzata. Io penso che se questo atteggiamento dei giovani di oggi viene alimentato ed incoraggiato, non sarà possibile che le organizzazioni mafiose, quando questi giovani saranno coloro che regoleranno la società in cui vivranno, non presteranno più a questo genere, a questo consenso, che purtroppo la generazione che ora alla mia età probabilmente diede e dà ancora in misura notevole alle organizzazioni mafiose, in misura notevolissima. E la caccia ai latitanti la si fa anche con l'ausilio dei collaboratori di giustizia, come spiegava Giovanni Falcone. Se un imputato afferma di far parte di un'organizzazione criminale, ne indichi la struttura e la finalità, riferisca uno o più episodi costituenti la realizzazione del programma criminoso e inoltre indichi, per scienza diretta o del relato, altri membri dell'organizzazione, non credo che si possa parlare di prova indiziaria, ma solo di attendibilità o meno della chiamata in correità, che può e deve essere valutata alla stregua di qualsiasi altro mezzo di prova. Quei pentiti, quegli infiltrati, per anni utilizzati anche dal generale Carlo Alberto dalla Chiesa, pure lui ucciso dalla mafia. Se è vero che l'infiltrazione esisteva fin dai tempi dei babilonesi, è anche vero che in tutte le guerre tutti gli eserciti hanno attinto a piene mani al nemico vinto. E poi c'è da aggiungere una cosa, la collaborazione, la cosiddetta collaborazione, vale in quanto gli interlocutori che la raccolgono sono ben preparati, sono preparati a raccoglierne l'intera tematica per evitare o lasciare spazi alla reticenza, alle omissioni, ai falsi. Il ministro dell'interno Giuseppe Pisano lo ripete spesso, presto Provenzano sarà catturato. E ne è convinto anche Roberto Centaro, presidente della Commissione Antimafia. Noi speriamo che sia catturato prima possibile, e c'è una profusione di uomini e di mezzi, addirittura moltiplicati rispetto al precedente impegno, e questa latitanza dura già da un bel po'. Catturato Provenzano, la lotta alla mafia prosegue come e più di prima, ovviamente. E allora, secondo voi, quale pentito potrà mai tradire Bernardo Provenzano? Chi se lo venderà allo Stato? E in cambio di che cosa? Padre Salvatore Lobue, impegnato da anni sul terreno della legalità e del lavoro, ha un'idea precisa. Quando qualcuno dei grossi mafiosi viene consegnato, viene preso dalla polizia, dai carabinieri, viene arrestato, questo avviene soltanto perché di fatto viene consegnato alla stessa mafia vincente, perché il soggetto non è più realmente il capo, perché non interessa più all'organizzazione. Quindi non vorrei che per l'ennesima volta si verifichi quello che si è verificato in passato. La mafia di Bernardo Provenzano non uccide lungo i vicoli delle strade e delle piazze siciliane, no, non mette bombe contro i giudici e i magistrati, non spara più, ma controlla i traffici illegali, droga, armi, immigrati clandestini, e ha contatti accertati con la politica. Roberto Centaro, presidente della Commissione Antimafia. L'idea è che dopo la strategia di confronto duro che ha fatto scaturire una reazione notevole da parte dello Stato, ci si sia resi conto da parte dei vertici di Cosa Nostra che è meglio cercare di spegnere i riflettori, continuare a fare i propri affari. In questo momento Cosa Nostra è certamente meno forte di prima, ma è ugualmente molto pericolosa, continua a fare i propri traffici, ma cerca di farli in silenzio, proprio evitando i troppi riflettori e le troppe attenzioni che derivano dall'attacco agli uomini dell'istituzione, ma anche dal regolamento di conti interno all'organizzazione. Vi sono intercettazioni telefoniche che proprio parlano chiaro in questo senso. Ci sono dei boss mafiosi che mordono il freno perché vorrebbero regolare conti all'interno dell'organizzazione, ma non lo possono fare. La lotta alla mafia deve essere una battaglia condivisa. In politica non ci devono essere distinzioni, come conferma il neo procuratore antimafia Pietro Grasso. La mafia non può vedere divisioni politiche, la lotta alla mafia non può avere colorazioni politiche, non può essere di destra e di sinistra, perché la mafia incide sui valori principali dei cittadini, la libertà, la democrazia. Bisogna, e quindi la giustizia. La mafia è eclissi di legalità e penso che tutti i partiti politici e tutti i cittadini non possono che attendere a questi valori, che sono valori che però devono essere sentiti. E infine ci sono boss ancora liberi e criminali ormai nelle mani dello Stato. A loro si rivolse Giovanni Paolo II. Era il 5 maggio 1993 e a Palermo faceva già molto caldo. Questo popolo siciliano, talmente attaccato alla vita,